so, le nostre distanze se sei tu, Sore. Ma ascolti? Adesso sì. Ma prima non stavi uscendo. Fondo, cosa c'è successo, no? C'era la portante, però non ci sentivo. Strano, ma che cosa devo lasciare? Un anno più quattro. C'era la portante, però il radio, se stavi parlando non ti sentivo. C'era solo la portante, ma... Che cavolo ne so cosa è successo. E adesso sta, va bene, là. Adesso sei tu, là. Ah, prima no, è più strano, Perché la portata gli era tua, ma me l'ho immaginato che non stavi uscendo, L'M più 4 ne ho dovuto togliere e metterci l'M più 5. No, ma di strano però. Rimettilo di nuovo a vedere. Lo devo controllare. Adesso va bene, tutto in ritardo, va. E nel magazzino facendo cose, grazie a adesso. Sì, non fa di nulla. Nulla. Meglio così allora. Pensavo che avessi perso qualcosa. Invece ti lascio tutto già. Sì, vabbè. Già va bene lo stesso. Ma la gana va bene. Per questo va bene lo stesso. Allora, racconta, illuminami. Sì, cosa ti illumino? C'è che due differenti cose per fare analisi. Oggi me lo scaricate. Hai fatto bene. Io devo andare dunque. Lunedì devo fare gli analisi all'INAM. Poi il 26 c'ho l'altra visita lì al Palazzo Bianco. Il 26 però. Sì, vabbè. Già c'è già lontano 26 anni. Se andiamo così, piano piano. Già passa, piano piano, basta, una a una. Ci siamo vivi, già passa ciò. Sì, piano piano già arriviamo. Ci arriviamo in fili. Siamo giovani ancora tu. Siamo giovani ancora, dobbiamo masticare tanto pane, dai. E niente, ne dormivo io, ma io ne mangio assai di pane, anche perché la notte non ne mangio nulla. Per esempio oggi abbiamo cucinato peperoni, cioè rossi e gialli, e mi sono bagnato un panino, sta pulito proprio, Faccio un altro bagnetto, me ne è rimasto un po', stavolta me ne mangio un altro po', perché mi piace troppo, perché mi mangio il pane, capito? Io cerco di stare un po' fuori con il pane, anche se no mi rimane sempre la luce mi asso. Ma tu assai, devi anche mangiare un pane, devi mangiare un panino al giorno, minimo. Mezzogiorno e metà la notte. Va benissimo. Ma io quando metto a mangiare me ne mangio uno intero sto panino, sia a pranzo che a notte, e la notte. Se anche la notte ci sono da bagnarmi. Perché mi piace a bagnarmi, la roba bagnata, il pane bagnato, va. Lo so, ma due panini sono troppi. Ecco cosa è. Preferisco qualche volta nulla la notte, allora mangio un pezzo a pranzo e cose così. Io vado a fare il bacio, tanto, 160 160, 170, qualche volta che esagero anche a 165 e aumenta, capito? Oh, ieri ho fatto le analisi, la glicemia era a 145, pensa un po', vogliamo che le faccio le analisi, capito, già un po' garendo l'ascia. Fa quell'effetto qua, fa quell'effetto sto, anche a me succede questo particolare, anche quando vado al medico a fare occhi di dita, che misura la pressione, guardi precisa sempre, guardi precisa, però mi fa quello stesso effetto, capito? Allora appena appena più alta, ma appena però. Sì. Adesso quando li controlla la mia dottoressa, me lo dice, se è alta, se un pochettino giusta. Non ho la pressione, la c'ho sempre giusta io, va. Anche se c'ho la macchinetta, io ho tre macchinette, però una volta mi danno un certo numero, un'altra volta mi danno un altro numero, vai a comprendere tutto. Io non so così, io faccio così. Domani ce l'ho da controllarmela, quindi so come si può andare, così se no pazienza. Io intanto ce la misuriamo, però ripeto, è messa quel lavoro, capito? Momenti mi dà un certo numero, un altro numero. Precisa. Vai, va, so bello. A me io sono già preghissa, questa preghissa mi raggiungo lo gozzo. A volte ce l'ho 89, la mattina ce l'ho 89, 90, 95. E invece dopo pranzo, dopo cena mi capite già 115, 127, 122. È aumenta, dopo pranzo aumenta. Vai cerca tu. Vabbè, l'importanza c'è, nel troppo minimo, nel minimo è nel troppo alto. Per cui io ce l'ho sempre preciso, ultimamente quando ho fatto l'elettrocardiogramma e ce l'avevo normale, per cui sono tranquillo. Ah, ma c'è un istante, c'è durata per la pressione, la facciamo così, così tanto ci mettiamo e ce lo misuriamo, però mi ha sempre quei numeri che ti ho detto, un po' una volta un numero, una volta l'altra. Andare, si può andare bene, se no pazienza. Fatto tutto il resto ce lo dovrei avere normale. Ugo è stato un bel basso maggio. È un po' basso, cazzo, è pericoloso. E anche che vado troppo alto. Però no, io la butto sempre normale. Però quando vado sempre a fare qualche visita, la pressione mi rimane un po' agitato, me la se l'accorge, ma agitato, mi fa questo effetto attorno. La dottoressa non mi ha detto con le altre analisi, mi ha detto, dice, il colesterolo c'è parecchio basso, tutto il resto va benissimo, ma il colesterolo è troppo basso, mi ha detto. E cosa dovrei fare? Mollare le pastiglie. E mi ha detto, le pastiglie non le molli, cerchi di mangiare un po' roba più grassa, ha detto, più grassa. E ho detto, cosa mi devo mangiare? Un pochino. Ogni tanto, non molto spesso, però ogni tanto, poi anche a esagerare un po', dai. Io ce l'ho sempre normale, capito? Per cui sono tranquillo, anche la pressione, per cui non me lo posso lamentare. La glicemia è chiaro che io mangio, io quando sto mangiando, ho sempre fame, in realtà ciò che mi coltella durante il giorno, capito? Per cui una caricia nuova, a certe volte mi mangio solo una pesca. Capito, ho questo di quelli tende. È una ovetta, ecco faccio l'ovetta. Però mi bevo un sorbetto d'acqua e mi abbassa, capito? Sì, no, anche a me l'altro giorno. Ho bevuto una bottiglietta di acqua. Ma giubito, quando me l'ho misurata ce l'avevo quasi giusta. Ce l'avevo. Ma non è successo anche a 200, 220 anche ancora. Però quando capita così io mi metto l'acqua, perché io bevo acqua vera lì la maggior parte, già la cambio ogni tanto, però la maggior parte bevo smeraldina e bevo una bottiglia d'acqua, me la misuro dopo 2 ore e se mi abbassa, capito? Ecco, ma quando siamo molto alta, 200-220, allora già bevo molto, capito? Lascio con la lì senza parlare a 220, no. Ma la prima volta l'ho avuta a 250, ma da inizio lì sono sempre bassa, normale si può dire, non ce l'ho a quel coso lì. La tua sarà diversa dalla mia, per cui io sono così, però è anche colpa mia perché non siete piccoli tanto, capita, ma hai capito, per cui già siete fame, non siete fame. Adesso stamattina sono stato in campagna e ho portato un po' di casa. Ce ne erano corti e ce l'ho raccolto. Uno me lo sono mangiato, magari c'è un'isola che ci dia dopo, magari c'è un buono, perché i cacchi me l'aumenta, capito? E di parecchio burro aumenta, ecco cosa è, si aumenta di parecchio, i cacchi no, so che ancora assaggiano uno. Ma io dall'altro giorno che sono sceso ho visto che si era fatto lo scotto e oggi l'ha approfittata stamattina, vediamo un po'. Se c'è stato lo scotto me lo faccio, così ho fatto. Un'oretta mi sono stato saranno una cinquantina, capito? E per cui un po' ne ho messo mezzo crudi in magazzino, quello è cucina, da un giorno all'altro cucinano, capito? Sì, da un giorno all'altro già cucinano, già fanno come... io se li trovo vendendo io già li prendo a farli assaggiare alla signora, loro fanno macco bagliissimo. Ah, me ne piace troppo, ma la mente ne sono 7 alberi troppo, ma li ho portati quest'anno, li ho portati a zero, li ha messo poco e niente, direi che ne può qua, ma fino a fascia dura buona lunga. Però se tu non lo vedi che si guardano, come piove si spaccano, oppure gli insetti come stanno facendo, sta colorandosi, se questo insetto lo fugge si guardano. Perché bisogna mangiarteli subito, Gio Maria, buonasera, ciao Tore. E mangiarselo subito, come fai, metto quello che lo puoi mangiare. Già le porto almeno metto in magazzino, quando ti occorti me le porto su ogni tanto e qualcuno già lo mangia, dai, questo è il saluto. Sì, buonasera anche a te. E così a Gio Maria gli piacciono troppo i cazzi. Allora va bene, dai, sono entrato a salutarvi visto che stavo spazzolando, vi ho sentito, allora niente, ne ho approfittato. Dai, rilancio il mic a Gio Maria, ciao a tutti, dai, buon piacere. Ciao a tutti, mi ha fatto piacere tu, saluta l'amico mio, buon proseguimento, grazie per essere entrato, vai tu. Sì, a risentirci Tintino, alle prossime. Già, sarà fatto, Gio Maria, tanto mi è qua, quindi, non apro la finestra, glielo dico. Va bene, ciao ciao. Ciao, ti già, buon proseguimento, ciao a tutti in famiglia, ciao. Ok, alla prossima. E già, altrettanto, ciao a tutti, ciao ciao. È così, è so. E mi piace così, però non le devo abusare, dai. Ma mi solleva, a me poi lo mangio col pane io, non è che me lo mangio così, no. Io però ce lo mangio col pane, so. Ecco perché mi solleva l'aggressività, per questo motivo. Perché mi piace mangiare col pane, sia ruba, anche gli arancini. Forse la mela, qualche volta l'ha mangiato anche col pane la mela. No. Io mangio tutto con pane. No, se c'è la mela ne mangio solo la mela, poi se c'è altra frutta mangio solo la frutta senza pane. Ecco cos'è, qualche pochettino e vado avanti. Ora che c'è mia a 200 metri non se la posso assare. Mi sa fare, ogni tanto mi succede anche a me a 200 metri. C'è lo fatto, insomma ogni tanto, perché ballerina la mia, ma tutto dipende da ciò che si mangia, tutto lì solo. E poi la mia è diversa dalla tua, per cui tutto è per me. Mi abuso troppo, ecco, tutto lì. Non è che mamma ha detto che era una onda, era una onda 134, mi ha detto che era un braccio, e ha detto, cazzo, ti sei alta questa la glicemia. Allora quelli che ce l'hanno a 220, 250 cosa devono dire? Ma guardare la mia che è quasi normale. Solo a 204, a 270, ragazzi, e anche a 300, per carità, ma secondo il tipo della diabete, capito? A me questa è la mia, ma detto dice, anche a 160 va bene. La glicemia che ho io è parecchio alta, la gente è, faccio meno da amico, se t'andarei così si mette la gente. Però me l'ha giudito. Ma si è promulgato? Ma penso. Perché mi sembra aver sentito qualcuno. Ma chi è? Avanti, chi è? Anche dove passare? Buonasera signor Marino, io ti credo un bacio, se no si fa dentro lo guai, la voglia, se non è bene lo passa. Io l'ho sentito, sì, questa portata, ma ciao Marino, buonasera, ben sentito, sei tranquillo Marino. Adesso ci sentiamo bene, prima magari, mesi fa magari male, però adesso ci sentiamo bene, dai. Adesso hai messo a posto tutto, per cui va a gonfie vele, dai. Se non sono da fuori, sono. Stasera erano più forti, ai Sant'Agonubi erano. Ma si sono abbassati un bel. Ok. Da pace, dai, tranquillo, a voglia. C'è la propagazione, capito? Magari c'è qualcuno che si porta ancora, però no, non si passa, capito? Passi tu a gonfie vele, tranquillo, capito Marino? L'ho mangiato a pranzo. Ieri sono andato lì a cosa la Orupi, me ne sono preso 4 rossi, 4 gialli. E oggi me ne sono cucinato e me ne è rimasto un po'. E stanotte li faccio fuori, perché mi piacciono molto, capito? Poi mi bagno anche il panino, poi sta fuori qui. Arriveremo a Russia, arriveremo la prossima volta. Guarda che c'è fatto a rosso, cazzo, tu le fai a rosso, poi le togli la pelle, diciamo la pelle, poi le fai la insalata, salsa e un bombon, olio d'oliva e chiudiamo dopo, salsa e insalata, salsa qualche buono, e poi stuzzica e... Fammelo dici così. Però faccio quella griglia a fuoco, no quella griglia lì, com'è? Già è buono anche quello che mi viene, però falta poco i peperoni, la malattia sua, vero Mario? Sì, se te ne mangi due, te ne mangi. Se te ne mangi da te ne mangi due, io ne mangio anche da entrare. Dai, è tutto buono, guarda, dai, è tutto buono, per cui... la roba rossa mi piace molto, però rispetto a fatta quando la facevo in campagna, adesso in campagna non ci sto scendendo, e per cui qui c'è l'opera della griglia elettrica, e poi tutto là, e per cui va bene così, e mi fa. Non è che sono maggiore, però ogni tanto a micro i seggi, durante il giorno, ma è roba su che sta là, però no, non è che ci va. Qualcuno è già la mangio, ma poca roba però, cioè, un tempo le manette. E ho fatto un anno in campagna, di cose, quello di portatore, di marito di Caterina. Cazzo, una volta mi ha portato sei cassette, cazzo, e un bel di sacchetti di sale. E cazzo, l'abbiamo fatto tutti i secchi, cazzo, di là di chitarra roba, dove c'è stato una via in mezzo, i cambi spendere, per ponendola sotto sala. Però no, gli ho regalato, non mi va, no. Ma tu l'ho mangiata, ma il resto la... Sì, ma io mi bisogna una volta di... L'abbanto mi prendo, però no, non ci vado molto male. Ma allora se mangiare io, se appena appena piccantino, io lo mangio, perché mi piace, ma non molto, specialmente quando faccio cose, le spaghetti al punto di mare, cazzo, vedi di buono un bicchio, e per cui si pizzica, però mi piace, però a mangiare quello di tutti, a dire la verità, qualche volta l'ho mangiato, non mi va, mangiare. Ah, io quando li prendo me li faccio fare in tegame, se li fa li mangio volentieri, però arrosto e poi è fatto insalata, qualche volta li mangio. E le sardine, anche fatte in tegame, però perché non sono coppie nostre, sono da fuori, però il mangio mi piace, e le areghe mi piacciono ugualmente. Ah, infatti ne sono buoni, però io la mangiare le mangio una o io le mangio una o sono già tanto. Boh, te lo sai più cosa mangiare, ragazzi, boh. Roba rossa le facevo molto in campagna, ma quasi tutti i giorni. Famiglia che l'odore della roba rossa dice che mi fanno male, per cui ti cerco di evitare, ragazzi, perché il fumo pensare con la cambiglieria che ci avanza, se avrei fatto il carbone mi avrebbero buttato fuori. Infatti, prima di passare a Russo ogni domenica, da voi, ma e tu cosa non ho più fatto? Da Edo. Ma rispetto è così, allora oggi non puoi fare niente con carbone. Prima invece, da giovane, questo era un zendino, i carrini, lo fumo entrava in pericata e non broccolava nessuno, anzi di addietro un viaggio. Ah, ma invece tutti sono barati, anche si cosa, che c'è un fumo e non puoi continuare niente. Nel pesce, nel zendino, nulla. Io faccio uso la griglia elettrica, che c'è l'acqua, e il fumo non è qua. Per cui c'ho la luce, un piano già va fuori e non rompo le scatole a nessuno, per cui però non va tirata in campagna, con il carbone, con il fuoco, è tutto altra cosa, Maria, mai adesso purtroppo, che ci va a cucinare in campagna, qualche domenica può capitare, ma non mi va più a scendere in campagna, tu glielo puoi fare, non rompo le scatole a nessuno. Beh, fa bene che si accaccia di chi le gambe, per carità, come le gambe mie adesso, vabbè, ce ne sta anche, e per cui le balestre non funzionano più, cazzo, mi fanno male, cazzo, però piano piano già cammino, dai, ancora, per cui, che cosa devo fare? Alla sergenta, adesso tutti malati, però fatto qui a mettere la barca, finché la barca va, lasciamolo andare, tutto lì, poi a sette giovani, dai, 2 ore. Ma... se a 70 anni sei vecchio, ma... le faccio 87 il 10 febbraio, 87, pari, e comincio a sentirle. Infatti, fate così, un'oretta voi di riposi. Quando lavoravo, cazzo, era sempre perfetto io, tutto il giorno, l'ultimo lavoro che facevo era molto pesante, cazzo, quando arrivavo quei trattori, cazzo, le rotte che avevano il più grande di me, era un pesante, tutto il giorno la parte all'altra, però era sera scendevo in campagna a lavorare, ma mi sentivo sempre perfetto. È chiaro che magari i più giovani le forze c'erano e si invece stanno cominciando a mancare e per cui e cosa fai? Poi mi sa qualche seduto marito, poi ogni tanto c'è un gente mi fa muovendo da una camera all'altra, e vabbè, si va a fare così, l'età, pensai a Carogna, piano piano tiriamo avanti, dai. Va bene signore, io chiudo, ci sentiamo Maria, buon proseguimento, saluto di casa, in casa, ci sentiamo, sacca a te Torri, prendo io chiudo, buon proseguimento, ciao. Ok, ci risentiamo Gian Maria, le prossime, andare. Signor Maris, io ho una testa di zarro perché mi devo prendere le pastiglie. Ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao signor Marino, stammi bene. Ciao Marino.